Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte? Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi? Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della guerra. Invio! Non si può entrare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo! E buonasera a tutti e a tutte. Alle ore 22:12 siamo in ascolto con Radio Possum sulle frequenze 87.9 di Radio Onda Rossa. Torniamo dopo una settimana di vacanza e con delle notizie sconvolgenti. No, aspetta, non ti sei sentito per niente. Ricomincia. Allora, ricomincio. E beh, se non mi metti il microfono. Cominciamo bene stasera comunque. Dicevo, torniamo dopo una settimana di vacanza e torniamo con delle notizie assolutamente sconvolgenti. Creiamo un po' di atmosfera. Facciamo un po' di suspense, insomma. Quindi lasciamo questa anticipazione e vi invitiamo a rimanere collegati dopo la canzone Antagonist Show Some Heart Go Vegan con queste notizie sconvolgenti. Ed eccoci di nuovo in studio dopo questo brano molto potente, diciamo, che ci lancia in questa puntata appassionante. Allora, quali sono queste notizie sconvolgenti? Ma niente, chiaramente si capisce benissimo che questa è una puntata molto goliardica, diciamo così. In realtà no, è che negli ultimi 3 giorni a Roma è successo un vero e proprio delirio, si avvicinano le elezioni comunali e ovviamente i 3 principali candidati sono: uno è un fascista, un altro è un vivisettore e un altro è l'erede di una famiglia di palazzinari e costruttori, quindi vi potete immaginare che bello scenario ci troviamo davanti. Comunque vada, sarà un insuccesso. E vabbè, niente, no, è successo che sabato pomeriggio il candidato del PD, SL e via dicendo, Ignazio Marino, noto vivisettore, chirurgo e esperto di xenotrapianti e, che ha sperimentato soprattutto su primati nella sua carriera. Spieghiamo cosa sono i xenotrapianti. Xenotrapianti sono i trapianti che di organi che vengono fatti da specie diverse. Nello specifico, nel caso umano, si trapiantano sul corpo umano valvole cardiache, per esempio, di maiali, organi di scimmie. Su questo, tra l'altro, bisognerebbe anche aprire una parentesi, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito più volte che gli xenotrapianti rischiano di veicolare nuove pandemie addirittura a livello mondiale, con alti tassi di mortalità. Del resto, tutte le grosse epidemie e pandemie del mondo, dall'HIV in poi, vengono tutte, no, dal mondo animale. Sì, perché evidentemente, appunto, nell'animale che viene utilizzato per l'utilizzo dei propri organi, vi sono dei virus latenti, no, quell'animale, che poi, trasmessi in altra specie, possono sviluppare dei virus sconosciuti. E questo, insomma, è interessante ribadirlo, perché poi, come sempre, i fautori della sperimentazione animale, gli autori della sperimentazione animale, nella fattispecie i chirurghi di xenotrapianti, si presentano e si spacciano come benefattori dell'umanità, quando in realtà invece la pratica dello xenotrapianto è pericolosa, soprattutto a livello, oltre che chiaramente disdicevole, diciamo, per le sofferenze che a cui costringe gli animali, ma è anche pericolosa per la stessa umanità, di cui in teoria si vorrebbe fare il bene. Comunque, insomma, Marino, aggiungo, sì, scusa. Aggiungo che in Italia i xenotrapianti non sono molto praticati. Si è cercato di fare dei laboratori recentemente per i xenotrapianti, ma sono stati sempre bloccati. E infatti la pratica di Marino è stata eseguita soprattutto in America, dove diciamo, si è cementato questi xenotrapianti, che hanno portato alla morte, oltre che agli animali utilizzati per tali pratiche, anche delle persone che avevano ricevuto l'organo, nonché una persona che appunto è morta anche dopo 96 giorni di atroci sofferenze, perché ovviamente nel trapianto poi si ha anche una situazione di immunosoppressione del paziente, che lo porta poi ad essere il veicolo di tantissime malattie e quindi di soffrire molte pene, ecco. Basta, chiudiamo sui xenotrapianti. Diciamo, no, che gli unici che ci guadagnano veramente dalla pratica degli xenotrapianti, più delle volte, sono le grosse aziende farmaceutiche, che producono i cosiddetti, tutta quella classe di farmaci chiamati antirigetto, cioè che in teoria servono a evitare a favorire, diciamo, l'assimilazione del nuovo organo da parte del corpo ospitante. Vabbè, comunque, insomma, questo bel tipo Ignazio Marino, ricordiamolo, senatore del PD, laureato alla Cattolica, lui che si presenta come candidato della società civile, ma ha un percorso, il solito percorso di studi alla Cattolica, Università del Vaticano, protetto di Rosi Bindi e Massimo D'Alema all'interno del Partito Democratico, eppure si è riuscito a presentare e a imporre come candidato alla società civile. Insomma, si fa il suo giretto elettorale a Campo dei Fiori e trova degli attivisti di due gruppi animalisti, per i quali non è che noi proviamo particolare simpatia, cioè gli Animalisti Italiani e Federfida, che lo contestano. Da sabato succede un casino. Da sabato succede praticamente un casino. Succede che nello stesso giorno il beneamato sindaco di Roma Gianni Alemanno, già segretario del Fronte della Gioventù negli anni '80, fascista, sindaco che in questi 5 anni ha lasciato tante belle tracce a Roma, con lo smantellamento dei servizi sociali sia per gli esseri umani che per gli animali, con la cementificazione ulteriore della città, in questo, diciamo, ha proseguito sulla strada indicata da Veltroni. Insomma, Gianni Alemanno si fa fotografare con il suo gatto su Twitter, mi sembra, mette sì su Twitter, su uno di questi social network, insomma, e mette la sua foto del gatto dicendo: avete visto quanto amo gli animali, come Roma, gli animali a Roma, diciamo, migliorata molto la condizione degli animali a Roma e migliorerà ancora se mi rileggerete. A parte il fatto che cito testualmente, sì, da Alemanno: Roma negli ultimi 5 anni si è confermata una città sensibile verso gli animali, capace di ascoltare tutti i rappresentanti delle associazioni animaliste presenti sul territorio. La mia idea è quella di una città a misura degli animali. Tra i miei impegni anche quello di patrocinare e favorire il più possibile ricerche e studi su efficaci metodi alternativi alla sperimentazione animale nel settore farmaceutico. Con la vostra fiducia continuerò a farlo. Insomma, grandi commenti da parte del buon Gianni, insomma, che ci racconta come si è prodigato in questi lunghi anni per gli animali. Cioè, infatti, insomma, mi sembra abbastanza palese ai nostri occhi, no, come Roma sia una città a misura di animale. voglia. Roma, tutti i servizi, quei pochi servizi che c'erano in favore degli animali a Roma sono stati pressoché distrutti dai 5 anni di amministrazione Alemanno. Una su tutti era la figura dei cosiddetti cani liberi accuditi, che erano cani, diciamo così, randaggi, che però il comune, perché il comune in teoria è il proprietario dei cani randaggi, già termine molto specista, ma per comodità, diciamo, e per intenderci, continuiamo a usare questa parola, soltanto che prima il regolamento comunale prevedeva che diciamo, dei cittadini potessero farsi carico di questi cani, il comune a sue spese li sterilizzava e questi cani continuavano a rimanere liberi sul territorio, che era l'alternativa, il territorio in cui erano nati e cresciuti, ed era l'alternativa sicuramente migliore invece alla reclusione in canile. Nei 5 anni di Alemanno i servizi, questo tipo di servizi sul territorio è stato praticamente scomparso, il comune non fa più sequestri per maltrattamento, per esempio. Sono stati invece incentivati molto la deportazione di cani randaggi, soprattutto in strutture private, ovvero sia in strutture non comunali, ma strutture private, che comportano un costo ancora maggiore per il comune e quindi per i cittadini, e che a loro volta prevedono che praticamente questi animali rimarranno lì per il resto della loro vita, lungo o breve che sia. Insomma, comunque, vabbè, Alemanno ha colto, come dire, al volo l'occasione che gli si presentava, spacciandosi per appunto candidato animalista. Peraltro mi chiedo un sindaco come faccia, non, visto che non ha nessuna competenza né poteri in materia, a parlare di sperimentazione animale, perché al limite dovrebbe essere il presidente della regione, ma il sindaco non c'entra assolutamente niente. Oggi sempre Ignazio Marino torna alla carica, e dopo la brutta figura che ha rimediato sabato pomeriggio, Ignazio Marino che fa? Ignazio Marino va a visitare un canile di Roma che si chiama Ex Poverello, che è da qualcosa come 3 mesi, da novembre, occupato. Tra l'altro, noi in una trasmissione a dicembre avevamo anche sentito gli occupanti di questo canile, canile dove sono ospitati circa 70 cani molto anziani in recinti, quindi non in gabbie, recinti con il terreno, e che proprio il comune voleva chiudere e deportare questi cani sempre in strutture private. Marino va in questo canile a dire, a esporre il suo programma, la cosa in cui tra l'altro dice che non ci saranno più circhi con lui sindaco, dice che addirittura dice i cavalli delle botticelle soffrono, ce lo doveva dire Marino che soffrono, e che quindi grazie a lui, quando lui diventerà sindaco, non ci saranno più le botticelle in giro per la città sull'asfalto, ma verranno portate tutte dentro delle ville. E, vabbè, no, ma infatti è una cosa veramente... cioè, E altra cosa interessante che dice Marino è che secondo lui la sperimentazione animale è quasi un falso problema, perché lui dice che comunque la sperimentazione animale sta andando ormai, sta vivendo il suo crepuscolo, e quindi insomma a breve sarà, perché i metodi alternativi sono sempre più diffusi e più validi rispetto alla sperimentazione animale. Interessante vedere queste dichiarazioni di Marino, e chiedere, sarebbe interessante che chiedere un parere dei suoi colleghi e amici che invece la sperimentazione animale la continuano a praticare, e ci continuano invece a dire che è l'unica soluzione per assicurare un futuro radioso all'umanità. Ecco, ho ripescato anche la frase di Marino: i cavalli non sono adatti a circolare nel caldo estivo di Roma e spesso scivolano sui San Pietrini. Grazie Ignazio che ce l'hai detto, noi pensavamo invece che i cavalli fossero proprio animali nati sul cemento, che si divertissero, e che proprio il cemento e il caldo di Roma a 40 gradi d'agosto fosse il loro habitat naturale. E niente, questo è un po' il riassunto di questi 3 giorni in cui Marino e Alemanno si sono... diciamo così, si sono disputati, diciamo che è una cosa veramente penosa, si sono disputati il voto delle animalisti o delle persone sensibili agli animali a vario titolo, rimpallandosi una serie di accuse e di dichiarazioni a dir poco grottesche, foto su Twitter con il gatto in braccio, Marino che risponde a Napolitano: non credo che ci sia bisogno di mostrare i gatti in foto. Queste dichiarazioni le prendiamo dal sito di Repubblica.it. Sempre Marino dice: io non l'ho fatto con la mia Paolina e il mio Napoleone, perché credo che questi sono argomenti molto seri. Quali argomenti? Scusa, quello di farsi fare la foto col gatto? No, che poi ricorderei un attimo, anche prima delle elezioni a politiche, in cui c'erano diversi candidati che si facevano fotografare col proprio cane o gatto di casa. Quindi diciamo è un po' una moda del momento, quello di mostrare l'animalismo ai fini elettorali, che ci può dare un po' un dato, sì, dell'attenzione anche in questo momento sui temi anche di nostro interesse, però sicuramente non ci prenderanno in giro con queste questi proclami per le elezioni. Ecco, questo vogliamo che sia chiaro da questi microfoni. Tra l'altro, uno dei candidati, che era Mario Monti, che si è fatto fotografare con il cane, poi si è scoperto che il cane non era neanche suo, gli era stato messo in braccio da un collaboratore, gli era stato detto: guarda, di che è il tuo cane, così fai colpo. E c'era Monti con questo cane in braccio, che non sapeva neanche come si prendeva in braccio un cane, vabbè, no, ma... E va bene, e dopo questo piccolo, diciamo, quadro sulla politica romana, che penso che ancora molte puntate potremmo dedicare a questo argomento, visto che le elezioni sono lontane, quindi chissà cosa altro uscirà fuori. Beh, c'è anche da dire, scusate, a questo punto ricordiamo anche il candidato Alfio Marchini, figlio e erede di una famiglia di costruttori, i costruttori tradizionalmente legati al Partito Comunista, che ha detto che se qualora vincesse le elezioni, la sua attenzione sarà rivolta soprattutto alla tutela dell'ambiente a Roma e di quello che resta dell'agro-romano e via dicendo. Insomma, come dire, le dichiarazioni sempre più incredibili fanno a gara. E comunque questo è un po' il livello a cui si è ridotto almeno la politica qui a Roma, e noi ci interessava un po' darle un po' di rilievo, soprattutto perché si usano appunto gli animali, si usano tematiche importanti come la vivisezione. Ormai è diventata una moda dirsi contro la vivisezione, spesso i politici spuntano fuori i politici. L'Antesignano in questo senso è stata l'indimenticata brambilla, e ci sono persone che però lo dicono senza, non soltanto senza alcuna competenza, ma lo dicono sapendo benissimo che non hanno alcun potere di fare niente, come quando si dice che ogni tanto spunta qualche politico e dice: ma no, io abolirò la vivisezione in Italia, no? Sì, sì, sicuramente, però adesso mi stavi facendo venire in mente una cosa, che anche se ci sono tutti questi proclami, domani c'è un importante, diciamo così, appuntamento accademico e non solo, che all'Accademia dei Lincei, in ricordo di Claude Bernard, un grande genio della scienza. Grandissimo genio. Secondo appunto il manifesto di questa conferenza, sponsorizzata da varie università e non solo, anche dal mondo politico. Ricordiamo Claude Bernard. Chi è Claude Bernard? Appunto, chi ha introdotto massicciamente la sperimentazione animale con la sua opera Introduzione alla storia allo studio della medicina sperimentale, in cui appunto affermava che l'unico metodo di indagine efficace era appunto la sperimentazione animale. In realtà che cos'è Claude Bernard? Claude Bernard è un sadico che sperimentò su molteplici animali, arrivò anche a sperimentare sul proprio animale domestico, tanto che la moglie e la figlia crearono la prima associazione antivivisezionista. Egli compì degli esperimenti atroci, teneva gli animali in vita senza gli organi interni, metteva gli animali nei forni, in forni speciali, perché voleva scoprire il segreto della febbre. E in realtà tutta poi la sperimentazione che lui fece sugli animali portò a dei risultati inattendibili per l'uomo, ma lui dichiarò che comunque poteva soltanto sperimentare sugli animali, perché avrebbe anche sperimentato sugli uomini, però non gli era data la possibilità di farlo, ma lui non era neanche contrario a questo, diciamo. E aspetta, non ti sei sentito? Ripeto. Dicevo, ricordiamo anche come è morto Claude Bernard. Almeno quello, cioè che è morto folle, perché era diventato cieco, morì folle in quanto vedeva tutte quante, diciamo, i fantasmi degli animali da lui uccisi, quindi morì tormentato dal senso di colpa. Almeno quello, direi io. Cioè, non è neanche sufficiente. Va bene, se non vogliamo aggiungere altro, mettiamo un brano e poi continuiamo con questo dibattito. Mettiamo Albino? Che, ricordiamolo, ha un'illustre parentela, no? Il famoso figlio d'Albano che fa hip hop. Für alle Hip-Hop-Junkies da draußen, Albino, Nasty, Boulevard Boo, Hip-Hop Non-Stop, like this. Hip-Hop Non-Stop, Grieß in mein Ohr. Hip-Hop Non-Stop, rein ich im Chor. Hip-Hop Non-Stop, in der Regen schreit es vor. Hip-Hop deine Kohle steigt im Tor. Hip-Hop nonstop, fließt in mein Ohr. Hip-Hop nonstop, klang ich im Chor. Hip-Hop nonstop, eine Bewegung schreitet vor. Hip-Hop nonstop, eine Kohle steigt im Tor. Vom Konsument zum Konstrukteur agiert Rap-Akteur. Nasty, geballte Energie, erste Stufe als Freestyle MC. Die ersten Geldversuche, auch wenn die Rufe laut wurden, lass es lieber bleiben. Trainierte ich noch härter, um es allen zu zeigen. Jeder Contest ein Rap-Fest, wenn du checkst, was ich zu bieten habe. So mancher MC wurde mit der Ware aus dem Saale getragen, durch meine Worte geschlagen. Nur mit Hip-Hop im Gepäck hab ich endlich viele Jams gecheckt, auf der Suche nach Respekt. Nasty am Mikrofon und so manche Bühne wurde zur Burning Zone. Die Spezialisten live, denn wenn ich's Mic ergreif, kocht die Menge. Stylistics Programm und das in voller Länge. Denn Toy Styles war gestern, heute ist Premiere. Albino und Nasty, check die Karriere, die vor uns liegt, weil unsere Quelle nie versiegt. Unerschöpflich schöpf ich aus meinem Repertoire und starte meine Saga. Ziele im Blickfeld, die mir keiner zurückstellt, weil mich keiner mehr auffällt. Millennium, doch erst 1998 und ich freue mich auf das, was kommt. Denn gebombt, gebreakt, gerappt wird ewig. Deshalb lebe ich und liebe ich diesen Scheiß hier, präsentiere und werbe für Hip-Hop, bis ich sterbe. Hip-Hop nonstop, fließt in mein Ohr. Hip-Hop nonstop, reim ich im Chor. Hip-Hop nonstop, eine Bewegung schreitet vor. Hip-Hop nonstop, eine Kunde steigt im Tor. Hip-Hop nonstop, fließt in mein Ohr. Hip-Hop nonstop, reim ich im Chor. Hip-Hop nonstop, eine Bewegung schreitet vor. Hip-Hop nonstop, eine Kunde steigt im Tor. Hier kommt Buhmann, Reime sind so schneidig wie das Schwert von Conan. Der Barbar, der einst der Chef war und nun bin ich dran. Halt die Welt in Atem mit dem Hip-Hop-Flow. Bin süchtig nach der Scheiße wie ein Junkie nach Heroin. Kann ich fliehen, muss an diesem Joint ziehen. Der Kick ist unvergleichlich, Überschuss an Endorphin. Ah, inhalier die Bassdrum. Ich weiß noch genau, wie das alles begann. Denn viel wird heutzutage geredet über Steel Shield. Nicht auf die Charts, konzentrier dich auf das Spiel. Pass auf deine Faust auf, sonst fliegst du aus dem Spiel raus. Fall an deinen Skills, nimm das Mic und rock das Haus. Das ist was zählt, mein Freund, und sonst nix. Keine Effekte, keine Lügen, keine Tricks. Das ist was zählt, mein Freund, und sonst nix. Keine Effekte, keine Lügen, keine Tricks. Hip-Hop nonstop, fließt in mein Ohr. Hip-Hop nonstop, reim ich im Chor. Hip-Hop nonstop, eine Bewegung schreitet vor. Hip-Hop nonstop, eine Kunde steigt empor. Hip-Hop nonstop, fließt in mein Ohr. Hip-Hop nonstop, reim ich im Chor. Hip-Hop nonstop, eine Bewegung schreitet vor. Hip-Hop nonstop, eine Kunde steigt empor. Jetzt fing alles so harmlos an. Ein Garrick Beat, hier war zum Hören dran. Und dann, Hip-Hop zog mich in seinen Bann. Und wann? 1988, ich kann und ich konnte diesem Beat nicht widerstehen. Nicht denn gehen, nur in diese Richtung sehen. Im Rhythmus gehen und bequem in Regel höher drehen. Zum ersten Mal gehört, positiv verstört, nicht empört, einfach unerhört, gut belacht. Der Funk, den ich hab, ging sofort ins Blut, macht in den Mut. Positive Energie, die sich entlohnt. Der Hut fasziniert sofort. Egal wo er ist mein Hammer dort. Besser als Sport, wäre als Mord. Ich höre ihn im Akkord. Mein Lord, du hast ein Wort. Egal ob du short und ob du strong. Beim wahren Hip-Hop haben alle gewonnen, werden alle gewinnen. Nein, nicht finanziell, sondern kulturell gewinnen. Ein kulturelles Erbe, für das ich werbe. Erfolgreich hoffentlich, natürlich, sicherlich. Bist du aktiv, grüß ich dich. Wer nicht, dann versteck dein Gesicht. Und mal und spraye, tanz und breake, rap und take. Los, Leute, old school, sei kein Fool und zeige Respekt, den verdient. Ansonsten wird dein Ding für immer vermint. Yeah. Nonstop, fließt in mein Ohr. Hip-Hop nonstop, reim ich im Chor. Hip-Hop nonstop, eine Bewegung schreitet vor. Hip-Hop nonstop, eine Kunde steigt empor. Hip-Hop nonstop, fließt in mein Ohr. Hip-Hop nonstop, reim ich im Chor. Hip-Hop nonstop, eine Bewegung schreitet vor. Hip-Hop nonstop, eine Kunde steigt empor. Yeah, Albino, Nasty, Nasty, Babu, Rocky Shit, yeah, yeah. Viermark Studio, Hip-Hop Underground, Unstoppable, The Battalions, Allora, torniamo in diretta e adesso vi leggiamo un articolo che abbiamo trovato su Nemesi Animale, e, un articolo che parla appunto di una legge bavaglio che è stata approvata nello Utah. Allora, la censura a difesa dello sfruttamento. In Utah è avvenuta la prima denuncia per la cosiddetta legge bavaglio, quella che gli animalisti chiamano gag laws sono state introdotte negli Stati Uniti nel 2011 e consistono in multe e arresti per chiunque venga scoperto a fare dei filmati, fotografie, a registrare suoni all'interno di macelli e di allevamenti che testimoniano le condizioni di detenzione, di maltrattamento e di morte degli animali coinvolti. Queste leggi sono state introdotte per far tacere tutti coloro che vengono scoperti a portare alla luce abusi dei diritti animali, che vengono deliberatamente violati negli allevamenti intensivi. La legislazione è la risposta a una serie di investigazioni shock portate a termine da gruppi come Human Society, Mercy for Animals e Compassion Over Killing, che hanno condotto alla chiusura di stabilimenti e condanne penali per i lavoratori. La prima applicazione di questa legge è avvenuta pochi giorni fa nello Utah, dove una donna ha filmato che cosa avveniva in un macello dalla strada. Il suo nome è Amy Meyer e voleva vedere un macello con i suoi occhi. Aveva sentito che chiunque passasse da una strada di Draper City, nello Utah, poteva vedere gli animali uccisi in un'azienda produttrice di carne, la Dale Smith, così decise di andarci. Una volta arrivata a destinazione vide, attraverso il filo spinato della recinzione, le mucche che aspettavano la morte e disseminate per tutta la proprietà delle pile di corna. Le mucche si muovevano a fatica e lottavano tirate da uomini che cercavano di portarle all'interno di un edificio. Una scena, in particolare, la lasciò pietrificata. Una mucca viva, che sembrava essere malata o ferita, veniva portata via dall'edificio con un trattore. Non era altro che spazzatura, uno scarto. Quando vide questo orrore, la donna cominciò a filmare. Il direttore del macello uscì e le disse di smettere di filmare, ma la donna rispose che si trovava su un suolo pubblico e che aveva tutto il diritto di filmare. Disse la stessa cosa quando arrivò la polizia. Secondo il verbale della polizia, il direttore disse che la donna aveva superato e scavalcato il recinto di filo spinato, ma l'ufficiale di polizia annotò che non vide danneggiamenti di nessun tipo alla recinzione. La Meyer fu lasciata andare via, ma in seguito scoprì di essere stata citata in giudizio a causa della nuova legge appena applicata dallo Stato. Per fortuna la diffusione della notizia sul sito Greenings the New Red, ripresa poi da alcuni media, ha portato ad un ritiro della denuncia ad Amy Meyer. Ancora su queste leggi c'è un ampio dibattito pubblico e anche sui media vengono condannate come una forma di censura. Anche l'applicazione più restrittiva di queste leggi, come l'American Legislative Exchange Council, Model Legislation, scusate la lettura, non ha come bersaglio chi filma dalla strada, ma stati come il Nebraska, il North Carolina, Pennsylvania, Tennessee e Vermont si sono di fatto uniti allo Utah nel condannare come criminali chiunque registri in qualsiasi modo il dolore degli esseri senzienti non umani. Queste leggi hanno un solo obiettivo, quello di tenere i consumatori nel buio e gli attivisti nel terrore. Invece di rispondere ai video che mostravano i maltrattamenti perpetrati agli animali, con riforme che coinvolgano tutti gli stati e che rendano davvero pubblico cosa accade a milioni di animali, l'industria e i governi stanno cercando di spegnere le telecamere e mantenere le persone nell'ignoranza, unica arma di difesa per chi lucra della sofferenza animale. Queste leggi non riguardano solo gli attivisti, ma tutte le persone che, come Amy Meyer, hanno assistito a come vengono trattati gli animali dall'industria della carne e che lo hanno considerato un'ingiustizia. Queste leggi riguardano i milioni di americani che, vedendo queste immagini, le avrebbero considerate delle ingiustizie e avrebbero chiesto un cambiamento. Queste leggi sono un tentativo di imbavagliare un crescente movimento che sta chiedendo a gran voce la liberazione degli animali. Vabbè, insomma, se vi interessa appunto rivedervi questo articolo, ripeto, lo trovate su Nemesi Animale, e insomma è una chiara, diciamo, linea che viene portata avanti da governi insieme ai produttori dell'industria della carne, che chiaramente cercano di fare il tutto e per tutto per evitare che certe cose vengano a galla, nonostante ormai siamo abbastanza tutti consapevoli del fatto che di quello che avviene all'interno degli allevamenti intensivi. E queste sono chiaramente delle strategie che i governi cercano di mettere in atto per cercare di bloccare quello che viene alla luce una volta che una qualsiasi persona può mettere piede all'interno di un allevamento intensivo e vedere appunto lo sfruttamento fino a che punto ormai è arrivato. E a proposito di repressione e quindi anche di reazioni delle lobby che sfruttano gli animali, come in America la lobby dell'industria della carne, in America e in Inghilterra si sta opponendo alle attività di investigazione portate avanti da vari gruppi o da varie associazioni. Reazioni più o meno analoghe ce l'abbiamo qua in Italia. Fa ancora molta notizia la liberazione di centinaia di roditori dal Dipartimento di Farmacologia di Milano, di cui abbiamo parlato anche 2 settimane fa nella nostra trasmissione, intervistando 2 attivisti, e la lobby della vivisezione si sta mobilitando, mandandosi avanti appunto i suoi politici con le sue dichiarazioni grottesche di cui abbiamo parlato prima all'inizio della puntata, si anche promuovendo veri e propri appuntamenti pubblici, perché abbiamo scoperto che Protest Italia, che non va letta come protesta nel senso di protestare, ma protesta a favore dei test, che è una sorta di lobby, di gruppo di pressione, sono un gruppo di persone che si è unito e si è dato sto nome sulla falsa riga di un'associazione che esiste invece in Inghilterra e che si chiamava anche lì Protest, ha organizzato a Milano una giornata a favore, loro dicono chiaramente, della ricerca, contro l'oscurantismo, contro l'ignoranza, contro il fanatismo. In sintesi, una giornata a favore della vivisezione che cerchi un po' di ribaltare questo grosso clima di opinione che si sta fortunatamente creando in Italia contro la sperimentazione animale, grazie anche a Liberazioni, grazie anche soprattutto a denunce pubbliche, alla campagna di fermare i Green Hill. E per il 1° giugno hanno appunto indetto questa manifestazione a Milano, che non si capisce che senso abbia, se non quello appunto di ritagliarsi qualche titolo sui giornali e qualche quarto d'ora di celebrità sui telegiornali, che sicuramente avranno, visto che dietro di loro ci sono comunque le grandi università e le grandi multinazionali che fanno ricerca sia in campo farmaceutico, ma lo ricordiamo, anche e soprattutto in campo cosmetico, in campo militare e via dicendo, perché poi spesso si dice che la vivisezione in fondo è un male, la difesa almeno della vivisezione, però è un male minore, perché sì, è vero, sacrifichiamo animali per salvare persone, dimenticandoci che la sperimentazione animale viene fatta anche in ambienti che con il salvare le persone non hanno nulla a che fare, anzi l'esatto contrario, per esempio la ricerca nell'ambito militare. E a praticare sperimentazione animale in ambito militare sono quegli stessi ricercatori, quegli stessi gruppi di interesse, quegli stessi produttori di sostanze, che poi sono anche quelli che sono dietro qualsiasi campo della sperimentazione animale, quindi anche quella medico-farmaceutica. Vogliamo mettere un altro brano prima di lasciarci? No, non ci lasciamo ancora, però mettiamo un altro brano. No, non vogliamo andare a casa, ancora è presto. Però mettiamo un altro brano, così per velocizzare un po' certo. La trasmissione. Brano che dedichiamo al nostro amico e compagno Mocio, che stasera non è potuto stare con noi in redazione, ma che comunque salutiamo. E sicuramente ci ascolterà, e insomma questa canzone è dedicata a lui. Come sempre. Mettine 2 insieme, così sì, ancora più contento. Che per gli animali non esiste alcun diritto. Fight for animals! Fight! Fight for animals! Fight! Io non posso più restare indifferente alla violenza sul mondo animale in nome della scienza. Basta i vostri esperimenti, più diritti agli animali. Apriremo quelle gabbie vili e co-criminali. Animal liberation, animal liberation, animal liberation world. Milioni di animali torturati ogni giorno per il business della moda, dell'industria e dei suoi boia. Fight for animals, fight. Fight for animals, fight. Il tuo diritto all'eleganza non può certo prevalere sul diritto di sopravvivenza di un essere vivente. Basta i vostri esperimenti, più diritti agli animali, aprire quelle gabbie vili e co-criminali. Animal liberation, animal liberation, animal liberation war. Tornati, incomincia adesso, ci appropinquiamo allo spazio degli appuntamenti verso la chiusura. Cominciamo con un appuntamento a Genova. Un appuntamento a Genova che sono 2 giorni contro Air France KLM e il trasporto di animali per la vivisezione. E potete leggere l'appuntamento su informazione. Da circa 2 anni esiste a livello internazionale una campagna di pressione contro la compagnia aerea Air France KLM, prima azienda al mondo coinvolta nel trasporto di animali per i laboratori di vivisezione. Dopo anni di campagne, concentrate alla chiusura dei centri di allevamento, forniture degli animali per la ricerca, si è compreso come un attacco all'infrastruttura del sistema vivisezione, ossia quello alle aziende come le compagnie aeree, che permettono a questa industria della tortura di esistere così come lo conosciamo, potesse avere un impatto immediato e duraturo. Dall'inizio della campagna Gateway to Hell, il contrasto delle aziende aeree, in particolare responsabile del trasporto di cavie, ha collezionato un successo dopo l'altro, riducendo drasticamente il numero di compagnie disposte al trasporto e contribuendo ad un aumento esponenziale dei prezzi degli animali per la sperimentazione, tanto che persino alcuni grossi laboratori presso rinomate università hanno dichiarato di essere stati obbligati a rivedere i propri piani di ricerca in quanto non potevano più permettersi certi tipi di animali. L'azienda Air France KLM, oltre ad avere una responsabilità enorme nel supportare attivamente l'industria della vivisezione, si rende complice ogni giorno della deportazione di migranti considerati clandestini, ovvero senza un permesso di soggiorno o un qualsiasi altro pezzo di carta che permetta loro di restare in Europa. Le persone sprovviste di questo documento vengono internate in strutture detentive note in Italia come CIE, centri di identificazione ed espulsione, senza avere alcun procedimento penale a carico, ed infine deportate verso il proprio paese d'origine con la collaborazione di compagnie aeree, quali Air France, poco importa se nel paese dove torneranno vi sia in corso una guerra, manchino risorse primarie come acqua o cibo, o vadano incontro alla possibilità di essere torturate o uccise. Anche a Genova, presso l'aeroporto Colombo Air France, ha un ufficio per il servizio clienti ed ogni giorno diversi voli di questa compagnia partono ed arrivano. Fermare Air France KLM e rovinare gli affari di coloro che speculano sulla vita e la morte di milioni di esseri senzienti ogni anno è possibile, fermarli tocca a noi. Per questa ragione lanciamo 1 a 2 giorni di presentazioni, dibattiti e proteste che vogliono essere un'occasione non solo per esprimere nel pratico la nostra opposizione a questa industria, ma anche un momento per confrontarsi e riflettere sul sistema che permette, genera e giustifica aberrazioni come la vivisezione e sulla rinnovata necessità di una critica radicale alla società dello sfruttamento. Va bene, questa 2 giorni, insomma, ci sarà venerdì 10 maggio 2013 dalle 19 la casa occupata in Vico Superiore di Pellicceria, una cena vegan di autofinanziamento, il ricavato andrà a supportare le attività del gruppo Liberazione Animale Genova e alla casa occupata di Vico Superiore di Pellicceria 1. Vabbè, cioè, trovate il menu. E la presentazione sarà dei due gruppi locali, la Genova di Genova e la Lepre di Milano, e della campagna internazionale contro il trasporto di animali per la vivisezione Gateway to Hell. E sabato 11 maggio 2013 dalle ore 15 all'aeroporto Colombo, area partenza, ci sarà un presidio informativo contro Air France, KLM e il trasporto di animali per la vivisezione. Ci spostiamo poi per il secondo appuntamento a Crema, domenica 19 maggio, Piazza del Duomo, Crema, dalle 15.30 alle 18.30. Prendiamo questo appuntamento dal sito Nemesi Animale si riferisce a un presidio scenografico informativo sugli allevamenti di visoni per la loro abolizione. Leggo la piccola indizione di questo presidio. Nella provincia di Cremona, a pochi chilometri dal centro di Crema, sono presenti ben due allevamenti di visoni. Nelle gabbie di questi lager sono prigionieri più di 200.000 animali, che verranno uccisi in camere a gas e scuoiati per farne pellicce. Ma ben pochi lo sanno. Aiutaci a fare informazione sulla condivisione degli animali in questa società. Aiutaci a far conoscere i luoghi dello sfruttamento e a dar voce a chi è prigioniero delle gabbie. Lo potete leggere sul sito www.nemesianimali.net, 19 maggio, dal Piazza del Duomo Crema, dalle ore 15.30 alle 18.30. Cremona? No. Cremona. No, Crema, provincia di Cremona. Altro appuntamento sempre sul sito di Nemesi Animale, organizzato da Nemesi Animale, giornata nazionale in supporto alla campagna Visioni Liberi, sabato 25 e domenica 26 maggio. Dopo la diffusione dell'investigazione Morire per una pelliccia e il lancio della campagna per ottenere l'abolizione di questi allevamenti in Italia, ora abbiamo veramente bisogno di tutte le persone che come noi sentono impellente la necessità di porre fine per sempre alla reclusione e alla morte di questi animali. Sabato 25 e domenica 26 maggio sono previste due giornate di tavole informative e raccolte firme per la petizione che chiede ai ministeri competenti della salute e delle politiche agricole di adoperarsi in tal senso. Poi sul sito Nemesi Animale, sezione appuntamenti, trovate per chi è interessato a promuovere nella propria città un'iniziativa del genere in questi due giorni, 25 e 26 maggio, tutta un vademecum, diciamo, su come procedere e come muoversi, che non vi leggiamo perché è un po' lungo. Insomma, tutte le informazioni trovate su nemesianimale.net. E tra l'altro che infine l'ultimo appuntamento che dobbiamo dare è l'appuntamento di venerdì 10. Ah, dimenticavamo! No, ce n'era un'altra. Regà, cioè direi il più importante, tra l'altro. Insomma, c'è un altro che significa. Andiamo con questo. Quello l'abbiamo già detto, quello che tu hai aperto. Vabbè. Allora, la nostra confusione mentale, magari se non però la mettiamo in onda. E pensate che ci hanno detto anche che siamo anche molto organizzati. E non sto scherzando, c'è stato proprio detto complimenti. Ma noi siamo molto organizzati. La questione è che siamo molto anche simpatici. Quindi certo. Vogliamo sempre fare dell'ironia all'interno della trasmissione, creare queste situazioni un po' sul comico, però non è realtà. Certo, infatti per questo ringraziamo comunque i compagni di Radio Blackout, insomma, che ci hanno mandato una mail dandoci insomma questo appellativo di persone molto professionali. Non lo so, vi ringraziamo tantissimo, siamo insomma molto contenti di sapere che anche Radio Blackout, cioè dal 2009 comunque ci sta una trasmissione antispecista, e siamo molto contenti insomma anche di prendere contatti con un'altra realtà torinese, appunto, che tratta come noi questo tipo di questione. Loro trasmettono la domenica? Loro trasmettono la domenica dalle 17 alle 19, quindi insomma per chiunque voglia collegarsi in streaming, non stanno in podcast, però appunto potete ascoltarli direttamente in streaming sui 105.250 Radio Blackout. La loro trasmissione si chiama Animal Radio. E insomma, poi dicevamo, ultimo appuntamento, ultimo ma non ultimo ovviamente, venerdì 10 a Dégage. Ci sarà una Dégage, che è insomma la nuova occupazione degli studenti dell'Università della Sapienza, che sta vicino a Piazza Galeno. Ci sarà insomma una cena benefit per Radio Onda Rossa, organizzata da tutte le trasmissioni del lunedì, tra cui anche Radio Possum. E ovviamente la cena sarà taradada, vegan. Un menù. Non sveliamolo. No, però proprio da chef di alta classe, ecco, certo. Direi. insomma, quindi invitiamo tutti e tutte venerdì 10 alle 21 a venire insomma a Degage a cenare tutti insieme con noi per fare sostenere, due chiacchiere. Fare due chiacchiere, bere dell'ottimo vino. E comprare insomma, qualcosa, qualche materiale informativo, qualche distro, qualcosa della nostra distro che fa sempre online, molto bene, che è sempre disponibile sul nostro sito, che ricorderemo fra poco. Una distro molto molto interessante, molto profonda, molto guarda, se lo impegnata. Dici così non te crede nessuno. Mi sembra che vendiamo Topolino contro gamba di legno, comunque messa così, Va bene. I nostri contatti. Posso fare un saluto prima? Sì. In realtà volevamo salutare, anche se chiaramente non ci sente e non saprà mai del nostro saluto, molto probabilmente. Però insomma ci interessava ricordare Daniel Andreas San Diego. Daniel Andreas San Diego è un latitante secondo la giustizia americana, perché lui è da 10 anni ricercato dall'FBI e da 10 anni l'FBI lo mette nella lista, nella top 10 dei most wanted terrorist, sto leggendo il sito dell'FBI, ovvero sia dei 10 ricercati più ricercati del mondo. L'anno scorso, due anni fa, insomma, in pole position c'era ovviamente Osama Bin Laden. San Diego è un attivista per la liberazione animale che è stato molto attivo all'inizio del 2000, diciamo nei primi anni del 2000, nella campagna contro HLS, contro i laboratori di vivisezione Huntington Life Sciences. È accusato di alcuni attentati esplosivi, chiaramente sempre contro oggetti e proprietà, mai contro persone. Ed è riuscito insomma a farla, a darsi, a fuggire, ed è ancora in fuga e niente, è ricercato dall'FBI, è ricercato dalle polizie di diversi stati americani e probabilmente anche di diversi paesi. Insomma, continuiamo a sperare che rimanga ovviamente libero. Perfetto, diamo allora infine i nostri contatti, la nostra mail lagazzaladra@inventativi.org, il nostro sito blog, diciamo, il sito blog radiopossum.noblogs.org. Scriveteci, sentiteci. No. E un saluto al nostro compagno Mocio, sempre, e a tutti e tutti coloro che sono privati della loro libertà personale, animali e non. Buonasera a tutti e tutte. A venerdì, venite numerosi.